cartellone di Elisabetta Fiorito. Voi lo sapevate? Mio zio, questo lo sapevo. E tu? No, donna Filumene mi odia. Tre figli. E quanto anni te? Ho più grossi di 26 anni. 26 anni? E mi basta fare un metro e paura. Non sono figli a te. E te conoscono? Ma parlate, sanno che tu sia mamma. No, ma li vedo sempre e ci parlo. E addosso stanno, che fanno? Come campano? Che non ha buio. Voci, voci di Napoli, voci di un teatro antico e sempre attuale, quello di Edoardo De Filippo, interpretato, come avete riconosciuto, da Lina Sastri, che fa proprio Filumena Marturano e Luca De Filippo. Buongiorno Lina Sastri. Buongiorno a voi, eccoci. Seconda stagione di questo personaggio assolutamente poliedrico e innovativo di Edoardo, scritta questa pièce. Nel 1951 anche un po' contrastava quello che erano le ipocrisie. 46, proprio subito dopo la guerra. E fu una commedia dirompente. Beh sì, fu dirompente, ho letto insomma all'epoca, perché la prostituta era insomma la protagonista e perché appunto all'inizio pare che Titina De Filippo, grandissima, per la quale poi fu scritta la commedia, non riusciva a stare diciamo dentro un personaggio che le veniva richiesto da Edoardo, freddo, cinico, distaccato. Lei che era una donna giustamente voleva poi animare questo cuore che, per quanto si mostri privo di passione, di romanticismo, invece poi le cela, come tutte le donne sanno che è così. E poi dopo si impadronì di tutto questo, ci fu il trionfo che ci fu e che poi ha continuato a esserci nel tempo, tradotto in 40 paesi, insomma, ed è un'icona del nostro teatro. E poi il film appunto con Titina, per quello mi era confusa, del 1951. Lina Sastri, qual è l'attualità oggi di Filumena Marturano? Quale lezione può dare Filumena alle donne di questo paese? Beh, lezione. Il teatro è sempre comunque la comunicazione di un'emozione. Attraverso quell'emozione ti arriva poi il cosiddetto messaggio. È una donna che combatte per la famiglia. Anche usando uno stratagemma, per me è molto complicato insomma fare una donna che in qualche modo, per quanto io sia nata a Napoli, sia napoletana e sia di un vicolo, quindi appartenga alla classe del popolo, però mi è lontana perché guarda il mondo con gli occhi aperti e guarda gli uomini con gli occhi aperti, anche il suo uomo che lei molto ama e forse molto odia per quello che le ha scatenato nella vita. Lei combatte per la famiglia, vuole dare una famiglia a questi figli, dei quali uno, come lei stessa dice, è il figlio di Domenico Soriano, non sapevo mai quale, vuole dare un'appartenenza. E mi sembra che oggi, proprio che la famiglia è il punto più dolente della nostra società, che una volta si fondava sulla famiglia e che adesso l'ha perduto, no? E vediamo questi giovani soli che vagano in un universo di solitudine e di confusione perché non hanno più riferimenti, indietro non si può tornare. Ma insomma comunque parla di una donna che riesce in qualche modo a vendicarsi anche con egoismo, anche con cinismo, in modo maschile. Cioè si confronta con il mondo maschile dopo aver subito per 25 anni, venendo dalla miseria umana dalla quale viene, con uno stratagemma, quindi con il cinismo in qualche modo maschile che non appartiene alle donne, che però nasconde comunque una forza dignitosissima di una donna che però è arrivata appunto a guardare all'amore, a guardare agli uomini, a guardare alla vita con gli occhi aperti, senza asciutti, come dice lei, fino all'ultimo, quando finalmente riesce a ottenere tutto questo, ma con la malinconia e la stanchezza di chi ha combattuto e quindi finalmente si concede le lacrime. E poi riprende il suo uomo che gli stava sfuggendo. Gli stava sfuggendo perché naturalmente è arrivato a un'età matura, sicuramente con una ragazza giovane, come logico. Chi ci ricorda? Chi ci ricorda? Tutti ci ricorda. E questa donna però non si fa. Parliamo però comunque di un'epoca diversa, parliamo dove le donne erano riferimento ancora per gli uomini, dove gli uomini ancora riconoscevano delle donne compagne e madri di una vita, no? nonostante tutto, infatti nonostante tutto poi Soriano le riconosce questa appartenenza, alla fine, anche se con fatica, anche lui diventa adulto attraverso lei. Oggi viviamo in un'epoca in cui tutto questo si è un po' con il divorzio, con la cosiddetta parità femminile, che poi tale non è realmente, perché la nostra differenza è bellissima e ce la dovremmo tenere cara. Tutto questo, insomma, la diversità del mondo femminile, del cuore femminile che conquista tutto questo, è un po' più difficile. Però comunque niente, parla del modo proprio diverso di amare, di un uomo e di una donna. Una donna che quando sceglie, sceglie per la vita e per se stessa e per il suo uomo e per i figli e per la famiglia. E l'uomo invece, che naturalmente è figlio, rimane in qualche modo ambiguo, superficiale, bugiardo, come è la sua natura, che è poi quella che noi tutte donne amiamo. Ma il teatro di Eduardo, insomma, possiamo definire Eduardo forse il più grande autore di quelli lì più recenti, diciamo. Dopo Pirandello c'è stato lui, poi non c'è stato più nessuno, diciamo, o comunque nessuno a quel livello. Ecco, il teatro di Eduardo oggi viene visto anche molto dai giovani, c'è un ritorno dei giovani a teatro. Moltissimi giovani, io ho visto a teatro, a parte che abbiamo un teatro sempre esaurito, strapieno, fino all'ultimo ordine, non c'è mai un posto, il che è bellissimo, no? È vero che Filomena è un titolo, insomma, un'icona, è un classico, però pieno di vecchi, medi e giovani. E i giovani riconoscono, sappiamo tutti, insomma, cercano le emozioni in un mondo che non gliele dà più, in un mondo che non gli dà più segnali di appartenenza, riferimenti. Loro fanno finta di essere indifferenti, ma bisogna darglieli, perché poi quando glieli dai loro ti sono riconoscenti, forse per poco tempo, però li cercano. E sentiamo un altro assaggio dello spettacolo Filomena Marturano. Ovunque, con tutte le leggi, ecco, tutte i diritti, ovunque che si difende da carta e caffeina, Domenico Soliano è l'avvocato, e qua c'è Stonghiglio, Filomena Marturano, che da Reggia Soglia è cambiato grande, perché la gente, Domenico Soliano, la ritte sempre. Avessi visto mai una lacrima in da chiunque. E gli senza gli altri. Poverito, gli occhi miei sono asciutti come ballesca. Voglio che siete figli. Filomena. E chi sei tu? Come vuoi impedire di essere figli miei da soffi? Ecco, io intanto le dico congratulazioni, perché io non dico mai brava agli attori che sono a cartellone, però lei è troppo brava, glielo devo dire. Molto gentile, ma sentirmi mi fa proprio impressione, anche perché per farsi sentire e per farsi capire, siccome l'unica che parla veramente napoletano in Filomena Marturano è Filomena, no? Perché è analfabeta, perché certo, dice proprio, parla napoletano. Gli altri personaggi parlano italiano con l'accento napoletano. Lei parla napoletano. E allora per farsi capire bisogna accentare, distendere, non si può recitare veramente con il ritmo, diciamo, naturale della lingua. Bisogna, ecco, dire "Mesita figlia", ecco, no, "Mesita figli". E sentirmi adesso mi faceva uno strano senso, esce una voce diversa, un'altra donna. Un'altra donna. Allora ricordiamo Lina Sastri, come abbiamo sentito, questo assaggio Filomena Marturano di Eduardo De Filippo con Luca De Filippo e con Lina Sastri. Tantissime date e basta cercare anche su internet. Io ringrazio Lina Sastri, ringrazio Filomena. Vi ringrazio moltissimo io, grazie a voi. Cartellone. Una stanza. In fondo alla stanza si intravede un'enorme libreria, libri sparsi ovunque. Il resto dell'ambiente colpisce per la sua nudità. Niente poltrone, né scrivanie, né tavoli, solo qualche sedia di legno. E in un angolo una vecchia stufa di ghisa. Un uomo sulla cinquantina, il professore, è seduto e sta scrivendo. Ufa, non ho più niente da bruciare. E quelli? Gli scaffali sono di metallo. Ma no, i libri. Cosa? I libri. Marina, non è roba da ardere quella. Oh, Daniel, vedrai. Bruciano benissimo. Signorina, signorina! Il giorno in cui saremo costretti a bruciare dei libri. Ma vuol dire che avremo proprio perso la guerra! E quello che sentite è Libri da ardere di Amélie Nothomb, regia di Cristina Crippa, in scena al Teatro dell'Elfo fino al 31 dicembre a Milano. Buongiorno Cristina Crippa. Buongiorno. tre persone sono sul palcoscenico per questo testo di questa scrittrice contemporanea francese molto particolare, Amélie Nothomb, e Libri d'Ardere è l'unico testo teatrale, giusto? Esatto. Perché hai scelto questo testo? Io sono stata affascinata anni fa, così casualmente, da lettrice un po' onnivora. Mi era capitato in mano un romanzo di Amélie Nothomb che allora era ancora poco nota al pubblico italiano, non sapevo assolutamente che tipo di personaggio fosse. Il romanzo, che era Mercurio, mi è piaciuto tantissimo. Ho cominciato a interessarmi a questa autrice e ho scoperto che aveva questo piccolo testo teatrale, appunto Libri d'Ardere, Combustibile nell'originale, con tre personaggi e un rapporto tra di loro molto molto interessante. E quindi ho cominciato a covare l'idea di farne uno spettacolo. Poi c'è stata un'occasione particolare, che era il compleanno della ristrutturazione della biblioteca di Monza, dove io vivo, e abbiamo cominciato a presentare lì una lettura dello spettacolo, che ha avuto un enorme successo. Ci siamo resi conto che aveva una potenzialità proprio teatrale, comunicativa molto forte, e quindi man mano poi è diventato uno spettacolo che ha debuttato ad Assi nel 2006. Ci sono tre personaggi, che sono il professore, interpretato da Elio De Capitani, che devo dire fin dall'inizio è stato nella mia testa il professore, che è un professore di letteratura molto vanitoso, intelligente, cinico, ma nello stesso tempo sentimentale, con molte contraddizioni e con un rapporto molto complesso con i suoi allievi e con il suo assistente. Poi c'è l'assistente, che è un giovane idealista interpretato da Corrado Cordino, che è stato, per cui il professore è stato per un po' di tempo un grande mito, una grande la figura di riferimento, e una giovane allieva, la più fragile apparentemente, anche se appunto è quella che abbiamo sentito proporre di bruciare i libri, no? E quindi la più cinica, ma poi è quella che nella situazione di guerra soffrirà di più. E ricordiamo un po' la trama, no? Perché in una città, appunto, siamo arrivati al punto. In una città che a un tempo ha avuto una grande vita culturale, un'università. Una città, a noi viene in mente, il testo è stato scritto nel 93, c'era la guerra in Jugoslavia, la prima cosa che ti viene in mente, anche se è una città immaginaria, però ti viene in mente Sarajevo con la sua biblioteca, e quindi la città è assediata da 2 anni ormai, stanno perdendo la guerra. E nella casa del professore, che ha una magnifica biblioteca, si trovano a convivere il professore, Daniel l'assistente e alla fine anche la ragazza, perché le loro abitazioni sono andate distrutte, quindi si trovano in questa convivenza coatta e in una situazione limite, che è la situazione di guerra. Poi in particolare la Nothomb insiste su questa idea del freddo, che per Amélie Nothomb in questo caso è un fatto fisico, però spesso nei suoi romanzi è anche l'idea del freddo come quello che ti toglie i desideri, quello che ti toglie, come il raffreddamento della volontà di vivere, ecco. E quindi questi personaggi si trovano ognuno a modo suo ad affrontare questa situazione molto difficile di guerra, di disagio, di freddo, e quindi man mano i rapporti tra le tre persone si esasperano e si anche ribaltano notevolmente. Cristina, un attimo, ascoltiamo un altro piccolo brano dello spettacolo per poi andare alla conclusione. Ma siamo in guerra, Daniel! Cosa me ne faccio di una nuova visione del mondo, se proprio il mondo che se ne frega? Appunto, professore, non sta noi educare il lettore. Oddio, educare il lettore, mamma. Per educare il lettore affinché la letteratura non sia inutile. Ma non c'ha più 16 anni, Daniel, per uscire con ste fregnacce. Educare il lettore. La gente è la stessa, sia che si tratti di leggere, sia che si tratti di vivere, egoista, avida di piacere e soprattutto ineducabile. E poi non è compito dell'artista preoccuparsi della mediocrità dei suoi spettatori. Se li deve beccare così come sono, e se ancora può concepire l'idea di modificarli, beh, allora il romantico illuso è lui e non io, che mi appassiono a Vlatek. Se anche lei avesse ragione, professore, i suoi torti sarebbero solo più gravi, visto che ha passato 20 anni della sua vita a dire esattamente il contrario. Ma lei non vede, ma non vede che io ho ancora voglia! Io ho voglia di leggere Blatek! E di fronte al desiderio! Al desiderio, Daniel! Insomma, una discussione molto molto accesa, quella sul bruciare libri. Sappiamo che è un simbolo molto brutto quello, quando si bruciano i libri. Noi ci ricordiamo, no, le immagini del Terzo Reich quando venivano fatti questi falò, Cristina. Qui c'è un aspetto diverso, perché i libri vengono bruciati per riscaldarsi. Certo, vengono bruciati per riscaldarsi, però all'inizio i tre personaggi cercano di fare una specie di selezione, di bruciare per primi quelli che ritengono meno importanti, quelli che sono, quelli che gli dà meno dolore bruciare, però alla fine ci si accorge che non è tanto questione di libro bello brutto, di dissertazione letteraria, ma che è il libro in sé che rappresenta quello che c'è di più umano, la capacità di ricordare, di immaginare, di comunicare con altri esseri umani, il fatto di conservare una memoria, di inventare delle storie, di voler comunicare, cioè tolto quello non ti rimane più neanche voglia di vivere, non so come dire. Per cui, tra l'altro, Trump si diverte a inventare una serie di libri immaginari. Qui si nomina un Blatek a un certo punto, che è questo ultimo libro sopravvissuto, che è Il ballo dell'osservatorio, che è un libro di cui il professore a lezione parlava malissimo, invece adesso è rimasto il libro a cui è più affezionato. E molti spettatori ci chiedono, no, di questo ballo dell'osservatorio, che in realtà non esiste, ovviamente. E Tom si è molto divertita a inventarsi anche tutti questi libri immaginari. Quindi non si brucia Guerra e Pace, ma si bruciano libri immaginari. Forse faceva troppo male a Tom bruciare libri veri. Sì, forse. Ma anche avrebbe dovuto... Cioè, magari lo spettatore si distraeva, no, per entrare nel merito del giudizio sulle opere, se fossero state opere vere. Poi ogni tanto c'è qualche autore vero per confondere le acque. Per confondere, no? Un po' le acque. Allora ricordiamo, Libri da ardere al Teatro dell'Elfo fino al 31 dicembre al Teatro dell'Elfo di Milano. L'avete sentita la regia di Cristina Crippa su questo testo di Amélie Nothomb, e Cristina ci ha confessato proprio di essere una fan, e dopo quello che abbiamo sentito anche noi lo diventeremo. Con Elio De Capitani, Corrado Accordino, Elena Russo, Arman, Libri da ardere, Teatro dell'Elfo Milano. E adesso veniamo alla celebrazione di uno dei più grandi artisti del Rinascimento italiano, Giorgione. A 500 anni dalla sua morte, le celebrazioni hanno preso il via nel maggio di quest'anno con l'inaugurazione del Museo Casa Giorgione, e raggiungono ora l'apice con questa grande esposizione in programma fino all'11 aprile del prossimo anno, quindi da dicembre fino all'11 aprile. Castelfranco Veneto, città natale di Giorgione, ospita i capolavori giovanili del maestro, insieme a quello di grandi artisti con cui si rapportò durante la sua breve esistenza, da Giovanni Bellini a Carpaccio, dal Perugino a Sebastiano del Piombo, fino a Leonardo, Raffaello e Tiziano. Adriana Fracchia ha intervistato Enrico Maria Dal Pozzolo, uno dei curatori della mostra. Era stata definita la mostra più difficile del mondo quando l'avevano organizzata nel 1955 a Venezia. Erano altri tempi. È difficile per due ragioni. La prima è che su Giorgione ci sono pochissime informazioni biografiche ed artistiche. Si pensi che non c'è un dipinto firmato, non c'è un dipinto datato, non c'è un atto in cui lui sottoscriva con la sua firma, di suo pugno, una compravendita o qualche passaggio di questo genere. E quindi l'incertezza sulle opere, su quali sono davvero le sue opere, regna sovrana. E il secondo punto, molto difficile, è che i suoi capolavori non vengono solitamente prestati dai musei, proprio perché sono delle icone del Rinascimento, della cultura occidentale. Quindi la difficoltà è duplice, è quella di individuare i pezzi che tra loro fanno senso, danno un significato, danno un percorso, evidenziano il tragitto, la parabola di questo artista, e poi farseli prestare. Il progetto è stato concepito in maniera tale, in termini di tale rigore scientifico e di tale plausibilità, che musei nazionali e internazionali, che solitamente non prestano questo tipo di dipinti, ce li hanno concessi, ed è stato possibile creare davvero una panoramica dello sviluppo della sua arte, mettendo accanto, e questo è uno degli aspetti ulteriori, le opere di coloro che influirono sulla sua formazione e che furono influenzati dall'esempio di Giorgione. Nomi straordinari, da Giovanni Bellini a Dürer, da Tiziano a Sebastiano del Piombo, Raffaello, Leonardo. È davvero una mostra che che fa una radiografia di un particolare momento dell'evoluzione dell'arte italiana tra 4 e 500, irripetibile, in cui successe un po' di tutto. Ci furono questi incroci da parte di geni che vennero spesso a conoscersi personalmente, a volte semplicemente attraverso delle, spostamento delle opere o la produzione di stampe, ma che aiutarono davvero a cambiare pagina, a scrivere un nuovo capitolo della pittura italiana ed europea. Cartellone. Immaginate di stare in un teatro dove pian piano la luce va via e quello che sentite sono le mani sul pianoforte di Cesare Picco, Piano Piano Tour, che debutta ufficialmente al Teatro Smeraldo di Milano il 17 dicembre, giovedì. Buongiorno Cesare Picco. Buongiorno a tutti. Che cosa vuol dire blind date, cioè appuntamento al buio con la musica? Guarda, come pianista è un appuntamento al buio con la musica che improvviso in quel momento, quindi è una musica che non esisteva fino al momento prima di schiacciare i tasti del pianoforte. È un appuntamento al buio per ogni singolo spettatore, perché deve avere la voglia, la curiosità e il coraggio, abbattendo il senso della vista, di centrare l'ascolto in maniera diversa, di mettere la musica soprattutto. Tu nasci come pianista ovviamente, poi a un certo punto hai pensato di far vivere la musica solo attraverso l'udito, perché noi quando andiamo a vedere un concerto anche di musica classica ci concentriamo su vari strumenti, magari sul violino, sulla viola, sul pianoforte, sul tamburo. Invece in questo caso che cosa succede? È la voglia di abbattere il senso di questa immagine ormai diventata imperante, immagine elevata a massimo sistema, anche proprio nel campo dello spettacolo e della musica. È come se io avessi voglia di fare un passo indietro, di togliermi e di dire: signori, non avete bisogno di vedermi, proviamo a mettere veramente la musica al centro di tutto, imparare forse a riascoltare noi stessi. Ecco, questo è il blind date, è un po' una follia collettiva, sensoriale, un esperimento collettivo come quelli dei vecchi tempi. Cioè, piano piano io entro dentro il teatro, tu inizi a suonare e praticamente le luci si spengono totalmente, rimane solo l'udito, questo è. Esatto. E l'anima, se esiste. Esatto, si va al buio totale, cioè quello, per far capire ai radioascoltatori, è il buio dei non vedenti, quindi non è mancanza di luce sul palco. Il teatro sarà messo in sicurezza e il pubblico deve avere la massima tranquillità di questa cosa, perché sarà costantemente monitorato da una serie di videocamere a raggi infrarossi, quindi la sicurezza è garantita. È un'esperienza sensoriale, perché nei test che ho fatto con un po' di amici per testare la cosa, devo dire che la risposta di ogni singolo spettatore è veramente spiazzante e diversa, perché veramente si impara a mollare tutti gli ormeggi, tutte le zavorre che abbiamo, tutti i preconcetti, e imparare ad ascoltare in maniera diversa. E ascoltiamo allora. Noi poi ci siamo messi tutti quanti, sia da questa parte del vetro sia dall'altra parte del vetro, Alessandro e Gloria, li obbligati a sentire questa musica, questa Nessuno è come te, questo brano ad occhi chiusi. In effetti è molto difficile, però le sensazioni sono molto diverse, Cesare. Ti ringrazio, nel senso è quello che, se vogliamo, chiedo anche al mio pubblico, alle persone che acquistano il disco, nel senso che questo doppio album, ricordiamo che è appena uscito piano Cesare Picco, diviso in due. Nella prima parte songs, cioè indago la forma canzone nel senso leggero e profondo al contempo, come fossero dei racconti dal punto di vista della letteratura. La seconda parte invece è la registrazione di uno di questi test che ho fatto di Concerto al buio. Di conseguenza quello che chiedo anche all'ascoltatore è, se ha voglia, per capire e condividere con me la cosa, l'ascolto nella maniera migliore, è quello di magari la sera nella propria sala, magari al buio, spegnendo le luci, di ascoltare questi 45 minuti di musica e quindi viaggiare in questo caso con me in un'altra dimensione. E si viaggia in effetti quando si chiudono gli occhi, si viaggia in un'altra dimensione. Allora ricordiamo, per affrontare questa musica di Cesare Picco che ci fa volare verso altri lidi, ci fa dimenticare un po' le preoccupazioni della giornata, ma ci fa entrare dentro noi stessi, possiamo andare al Teatro Smeraldo il 17, poi a Varese il 22, a Bergamo al Palacrimberg il 23, ma ricordiamo l'appuntamento principale a Milano giovedì. Cesare Picco ha anche un suo sito www.cesarepicco.com, è appena uscito l'album Piano Piano. Insomma, Cesare, in bocca al lupo per questo tuo esperimento, e l'album è molto carino, la copertina, lo ricordiamo, c'è Cesare che sta sotto il pianoforte in mezzo a una strada, tipo un po' la pubblicità del Cinar di tanti contro il logorio della vita moderna. Beh, io invito tutti a venire sotto il mio pianoforte, a abbandonarsi per un attimo e lasciare i cellulari da un'altra parte, le macchine da un'altra parte, l'inquinamento da un'altra parte. Blind Date, Concerto al buio, ascolta la musica con altri occhi, Teatro Smeraldo, giovedì 17 dicembre. E adesso andiamo al Teatro della Cometa a Roma, dove è in scena fino al 10 gennaio Chat a due piazze, il seguito di una pièce di Ray Cooney, Taxi a due piazze, 20 anni dopo, una commedia degli equivoci molto molto divertente, con Fabio Ferrari, Lorenza Mario, Gianluca Ramazzotti, insomma moltissime moltissime persone, e noi abbiamo qui a cartellone Lorenza Mario e Gianluca Ramazzotti. Mario Rossi, buongiorno. Buongiorno. Non sapevo che aveste svegliato così presto pure la Mario. La Mario hai visto? Lo so, anche... Ma io sono mattiniera. Voi siete mattiniera, sono difficili gli attori. Dunque, Mario Rossi, tassista, è sposato da 20 anni, lo ricordiamo, a Barbara in piazza Ernerio a Roma, e poi a Carla in piazza Risorgimento, sempre a Roma. Ha due figli adorabili, Alice e Giacomo, di due donne differenti. Poi che cosa succede, Gianluca? Ma guardate, la situazione si va a ingarbugliare quando queste due famiglie, che sono tenute all'oscuro le une dall'altra, cioè proprio dei due figli e delle due mogli, cioè c'è un granellino di sabbia che si mette nel meccanismo per la seconda volta, perché nel primo Taxi il granellino di sabbia era una botta in testa che prendeva Mario Rossi, e da lì poi due ospedali, due brigadieri, tutto. Invece questa volta i due figli si incontrano su Facebook e decidono di perché insomma ci sono delle similitudini, no? Mario Rossi 43 anni, tassista, e dicono: beh, insomma, dobbiamo incontrarci per forza, questo granello scombinerà la famiglia Rossi, quella composta da Carla, che interpreta Lorenza, e da Barbara, che interpreta Miriam, e io interpreto Walter Fattore, che è l'amico di Mario Rossi, che sa tutto quanto l'ingranaggio. Allora, Lorenza, Mario, a un certo punto tu scopri che tuo marito è bigamo. Beh, questo adesso non si può dire assolutamente. Ciò che è di certo, cioè io e il mio personaggio, fin dall'inizio dello spettacolo, io vengo a conoscenza del fatto che mia figlia Alice ha incontrato via internet, chattando, questo ragazzo che si chiama Giacomo e che ha un padre che si chiama Mario Rossi, che fa il tassista, che ha 43 anni e che abita lì vicino. E questa cosa mi incuriosisce chiaramente. Dopodiché, quando sento che mia figlia l'ha invitato a casa, si vogliono incontrare, io metto di mezzo il padre, dico, ma scusami, ma cioè, questa è una cosa incredibile, tu devi chiedere il permesso a tuo padre. E quindi il ruolo mio è un po' quello di mediazione tra la figlia che vuole incontrare questo suo fratello, che non sa essere suo fratello, e mio marito, che si oppone in tutti i modi. Ma per quale motivo si oppone? Agli occhi miei, perché chiaramente non è una cosa seria quella di incontrarsi chattando, no? È chiaro che un padre si preoccupi per la sua figlia di 15 anni e che vuole andare a conoscere uno sconosciuto, anche se poi in realtà chiaramente Mario Rossi è motivato dal fatto che lui non vuole che i due figli si incontrino, altrimenti le due mogli vengono a sapere tutto il fatto, si scopre che lui è bigamo. Quindi tutto questo meccanismo che viene ad instaurarsi è assolutamente avvincente e dà modo, dà atto ad una serie di cose che succedono in queste due case, tra quella di Piazza Ernerio e quella di Piazza Risorgimento, dove i due protagonisti, appunto Mario Rossi e l'amico Walter Fattore, inquilino a Piazza Risorgimento, fanno di tutto, architettano delle cose incredibili per far sì che questi due ragazzi non si incontrano, e chiaramente ne escono delle scene veramente molto molto divertenti. Ma Carla e Barbara, possibile che sono così un po', come si direbbe, fessacchiotte, che non sospettano? Vent'anni di bigamia. Sì, vabbè, diciamo che in questa commedia, sia nel taxi che in chat Due Piazze, il ruolo delle due donne è il ruolo, è quello che porta avanti la verità, ed è quello che dà la possibilità poi anche al surreale di essere credibile, no? Quindi il nostro ruolo è questo, e noi lo porteremo avanti con convinzione fino alla fine. Poi alla fine si scoprirà se siamo veramente delle fessacchiotte o se siamo addirittura più furbe dei due che stanno architettando tutto ciò. Però non ti posso dire assolutamente, perché... no, Gianluca poi in diretta c'è Gianluca, che poi quando io lo vedrò stasera a teatro mi tira le orecchie. No. Gianluca, tu interpreti il famoso amico, perché c'è sempre un amico complice che copre un po', no? Allora qual è il tuo ruolo? Quello lì di raccontare balle più dell'amico? Esatto, io racconterò tante di quelle bugie e succederanno di cose incredibili in scena, perché bugie poi portano tante bugie, non se ne esce più, veramente, è un continuo di raccontare balle una sopra l'altra, e poi si troveranno tutti e due i protagonisti incastrati in un meccanismo talmente più grosso di loro che poverini faranno una brutta fine. Simpaticamente, no, è uno spettacolo veramente alla Feydeau. Allora, ricordiamo Chat a Due Piazze, il seguito di Taxi a Due Piazze 20 anni dopo, la nuova esilarante commedia di Ray Cooney al Teatro della Cometa di Roma fino al 10 gennaio. La regia è di Gianluca Guidi. Ma io vorrei, perché mi sembra quasi di sentire che stai quasi per chiudere, non abbiamo forse detto tutti i nomi dei nostri colleghi? Allora, innanzitutto Fabio Ferrari, Raffaele Pisu, che è in scena, 85 anni, è un ragazzino incredibilmente bravo, simpatico, pieno di energia. Poi c'è Miriam Mesturino, che fa la parte dell'altra moglie, Barbara, e abbiamo due giovanissimi attori che fanno i due figli, sono Claudia Ferri e Antonio Pisu, bravissimi. Ricordiamo Chat a Due Piazze, Teatro della Cometa, Roma, fino al 10 gennaio. Cartellone. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. ricordiamo questa bellissima Parigi del dopoguerra, questa Parigi dove si parlava di esistenzialismo, dove vivevano personaggi come Sartre e Simone de Beauvoir, che adesso rivivono sul palcoscenico del Teatro Stanze Segrete a Roma, perché in uno spettacolo di Gianni Coltorti e con Gianna Paola Scaffidi viene ritratto Sartre da giovane. Buongiorno Ennio. Buongiorno. Allora, uno spettacolo un po' particolare, intanto c'è un triangolo in scena, diciamo così. Sì, ma veramente ce ne sono vari, perché nella vita di questa coppia celebre, che in cui lui aveva proprio dichiarato dall'inizio che lui era poligamo, non era fedele, diciamo così, e anche lei aveva le sue storie. Poi di fatto una grande storia d'amore, tant'è vero che stanno tutte e due nella stessa tomba. È stata una grande storia d'amore che ha fatto scandalo, che è stata però inscindibile, fortissima, molte più di altre coppie che sembrano inscindibili e poi si separano definitivamente. Loro invece sono sempre stati uniti, però avevano avuto altre storie. Questa Sylvie in realtà, più che una storia, perché ormai Sartre da vecchio, è stata una specie di musa che ha accompagnato gli ultimi anni di Sartre e di Simone de Beauvoir, perché erano amiche naturalmente, e l'ho accompagnato proprio fisicamente, diciamo, alla tomba insieme a Simone de Beauvoir. Quindi è un triangolo, in realtà un triangolo artistico per certi versi, anche se Sartre si può definire sicuramente artista, ma soprattutto filosofo. Lo spettacolo è un volo radente su tutta l'opera e la vita di Sartre e di Simone de Beauvoir in un certo senso, ma non è una seriosa vicenda, tutt'altro, è molto divertente perché c'è questa ironia che accompagna molto questo viaggio e c'è un ripercorrere due o tre opere essenziali di Sartre attraverso delle pillole di teatro, cioè La nausea, Il diavolo e il buon Dio, cioè una scena brevissima che però dà il senso dell'epoca. Ma quello che poi ho tentato di mettere in evidenza, e pare ci sia riuscito, è non solo questa grande storia d'amore, ma anche questa grande Parigi, perché non dimentichiamo che fino agli anni 80 Parigi era il centro del mondo, era la cultura europea e occidentale, era tutto ciò che faceva politica e cultura nel mondo. E le canzoni che abbiamo messo, dalla Via Rose fino alla Françoise Hardy, sono proprio canzoni che ricreano immediatamente quel mondo, riportano il mondo della brasserie che noi abbiamo ricostruito in scena, dove ci si incontrava, si parlava ore e ore, insomma, sono celebri le brasserie de Margaux, dove andavano sempre a prendere il caffè e in realtà incontrare altri intellettuali, altri artisti, cantanti. L'esistenzialismo, sì, l'esistenzialismo esisteva prima di Sartre, lo hanno affibbiato a Sartre, ma in realtà esisteva già nelle cave, no? Quando le andavano a cantare la Julie Cricot, Maurice Vian, andavano lì, succedeva di tutto, artisticamente e anche non solo artisticamente. E Sartre è diventato un po' il capofila, ma perché era la mente, diciamo, più significativa. Quindi un modo di rivivere un mondo che oggi non c'è più, oggi nessuno si siederebbe a un caffè a mangiare magari una baguette, a parlare ore di filosofia e di letteratura. Sì, questo non c'è più, però c'è una cosa di Sartre che invece oggi si sta riscoprendo, infatti lo spettacolo sta avendo un successo incredibile anche tra i giovani. E c'è il fatto che Sartre parlava di contingenza, sporcarsi le mani, cioè lui diceva: se questa è la situazione, in questa situazione io devo prendere posizione, poi magari sbaglio, ma prendo posizione. Le famose mani sporche, no? Il testo. Quindi oggi Sartre sicuramente non starebbe più forse a mangiare la baguette, ma starebbe davanti a un computer, può darsi, non so. Era un uomo che era il proprio tempo, viveva il proprio tempo e insegnava a vivere il proprio tempo e a prendersi le responsabilità del proprio tempo. Quindi non c'è nessuna nostalgia verso un passato nello spettacolo, tutt'altro, c'è invece un recupero di alcune cose che oggi farebbero molto comodo, l'ironia e soprattutto la presa di posizione consapevole e rischiosa, se vogliamo, su alcune questioni che invece oggi sono molto importanti, politiche e culturali. Poi loro incontrarono anche i grandi protagonisti del tempo, anche come Che Guevara, si schierarono a favore della lotta algerina nella guerra d'Algeri, che noi sappiamo invece era un punto d'onore per i nazionalisti francesi. Nello stesso tempo furono prima molto, diciamo, comunisti, poi invece uscirono addirittura clamorosamente, no? Dal partito, furono i più critici, tant'è vero che furono i gli antesignani in un certo senso del 68, di quello che fu la rivolta del 68, infatti sulla tomba di Sartre ancora oggi sono fiori portati da giovani, proprio perché sempre, ha dato sempre il senso di una ribellione a uno status passivo. Poi con i limiti naturalmente tutto questo può avere, che lui stesso più volte ha delineato, ma era importante prenderla questa posizione, lui l'ha presa, e lei soprattutto, perché non dimentichiamo che è stata la prima femminista della storia quasi, cioè, perlomeno quella più conosciuta, quella che ha più teorizzato il femminismo ed è stata più ascoltata dalle donne, insomma, è stata veramente la musa del femminismo. Quindi due personaggi che oggi è bene non ricordare in quanto nostalgiche figure del passato, ma in quanto quasi nostri amici che ci dicono che la vita è bella anche perché va vissuta pienamente in tutte le sue forme. Infatti in alcune battute del testo poi stanno a dire questo, quando la Simone nella fine della vita di Sartre gli chiede se poi pensa di aver sbagliato, se c'è qualcosa di importante che è rimasto della sua vita, e lui con le sue risposte filosofiche in realtà dà risposte che tutti non solo apprezzano ma che commuovono addirittura, perché riscopre proprio con questa sua partecipazione attiva all'esistenza, riscopre il bello anche di una struggente autunno, serata d'autunno, insomma, che diventa il centro dell'esistenza. Allora ricordiamo Ritratto di Sartre da giovane con Ennio Coltorti, che cura anche la regia, Gianna Paola Scaffidi, e con Glenda Canino, al Teatro Stanze Segrete di Roma fino al 20 dicembre, per riscoprire, come ci ha detto Ennio, due esempi e per vivere quindi il nostro tempo come loro hanno vissuto il loro. E adesso veniamo a qualche breve appuntamento da segnalarvi per questa settimana al Teatro Out Off di Milano, Breve storia della canzone italiana di e con Gianni Pettenati, uno spettacolo teatrale e musicale che racconta la canzone italiana e la vita quotidiana di molti italiani durante gli ultimi decenni. Sempre a Milano, al Teatro Verdi, in via Pastrengo, proseguono le letture sulle eroine del mito. Questa volta alle 16 di lunedì 14 dicembre, Elisabetta Vergani reciterà Cassandra. Inaugura in questo weekend la linea inesistente, viaggio lungo la ex cortina di ferro, una mostra di fotografie di Davide Monteleone al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Al Teatro Lo Spazio, sempre a Roma, 10 autrici, 10 corti teatrali al femminile che arrivano allo spettatore per raccontare storie create, pensate, vissute e scritte da donne. Al Teatro Argentina di Roma, dal 17 al 20 dicembre, Certe notti, uno spettacolo per l'Ater Balletto con musiche di Luciano Ligabue. E anche per oggi è tutto. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Una buona giornata a tutti.